il re Antioco, mentre percorreva le regioni settentrionali, sentì dire che in Persia vi era Elimaide, città famosa per ricchezza, argento e oro, e che il suo tempio era molto ricco e che vi si trovavano drappi d'oro, corazze e armi lasciatevi da Alessandro, figlio di Filippo, il re macedone che per primo regnò sui greci. Vi andò allora e cercò di occupare la città e di depredarla, ma non vi riuscì perché gli abitanti della città, conosciuto il suo disegno, insorsero contro di lui a mano armata, ed egli fuggì, allontanandosi di lì con grande dispiacere per far ritorno in Babilonia. Mentre era ancora in Persia, giunse poi un tale, il quale gli annunciò che le truppe partite per la terra di Giuda erano state travolte. Lisia, in particolare, partito con un forte esercito, vi era stato respinto dagli israeliti, i quali si erano rinforzati con le armi, i mezzi di guerra e le numerose spoglie tolte alle truppe sopraffatte. Essi inoltre avevano abbattuto l'abominazione che egli aveva eretto sull'altare in Gerusalemme e avevano cinto d'alte mura come per l'innanzi il santuario e Bet-Zur, che era una sua città. All'udire queste notizie il re restò sbigottito e fortemente agitato, si gettò sul letto e cadde ammalato per il dispiacere che non si era realizzato ciò che egli desiderava. Rimase così per molti giorni, mentre una profonda tristezza si rinnovava continuamente in lui. Pensò che stava per morire, perciò chiamò tutti i suoi amici e disse loro: «Il sonno si è ritirato dai miei occhi e il mio cuore è abbattuto per l'inquietudine. Mi sono detto a quale afflizione sono giunto e in quale grande tempesta mi dibatto. Ero infatti felice e amato nella mia potenza. Ora invece mi assale il ricordo dei mali che ho fatto a Gerusalemme, quando presi tutti i suoi oggetti d'argento e d'oro e quando inviai a sterminare gli abitanti di Giuda senza motivo. Riconosco che è a causa di tali cose che questi mali mi hanno raggiunto, ed ecco, con profonda tristezza, perisco in terra straniera». Chiamò Filippo, uno dei suoi amici, e lo costituì capo di tutto il suo regno. Gli consegnò il diadema, il suo manto e l'anello, l'incaricò di dirigere suo figlio Antioco e di prepararlo al trono. Poi morì lì il re Antioco, l'anno 149. Ma Lisia, appena seppe che il re era morto, proclamò re suo figlio Antioco, che gli aveva educato da piccolo, e gli impose il nome di Eupatore. Ora quelli dell'Acra bloccavano Israele intorno al santuario, cercando sempre di fargli del male e di sostenere invece i gentili. Giuda, perciò, avendo deciso di sterminarli, fece convocare tutto il popolo per assediarli. Si radunarono, infatti, e l'anno 150 posero l'assedio all'Acra, costruendo piattaforme e macchine. Alcuni degli assediati, tuttavia, riuscirono a rompere l'accerchiamento e, unitisi a loro alcuni israeliti rinnegati, andarono dal re e gli dissero: «Fino a quando tarderai a far giustizia e a vendicare i nostri fratelli? Noi accettammo volentieri di servire a tuo padre, di seguire le sue parole e di osservare i suoi decreti. Per questa ragione i figli del nostro popolo si sono alienati da noi. Anzi, quanti di noi vengono scovati, sono messi a morte, i nostri campi sono devastati, e non è contro di noi soltanto che hanno steso la mano, ma anche contro i loro confinanti. Ecco, ora stanno accampati intorno all'Acra, in Gerusalemme, per espugnarla, e hanno fortificato il santuario e Bet-Zur. Se non ti affretti a prevenirli, faranno cose più gravi di queste e tu non potrai più arrestarli». All'udire ciò il re si adirò e fece radunare tutti i suoi amici, comandanti dell'esercito e preposti alla cavalleria. Accorsero da lui truppe mercenarie anche da altri regni e dalle isole del mare. Il numero delle sue truppe era di 100.000 fanti, 20.000 cavalieri e 32 elefanti addestrati alla guerra. Passarono per l'Idumea e posero l'accampamento contro Bet-Zur. combatterono per molti giorni e si fecero delle macchine. Gli assediati, però, fecero una sortita e le incendiarono, combattendo valorosamente. Giuda allora partì anch'egli dall'Acre e si accampò presso Bet Zaccaria, di fronte al campo del re. Il re, però, si levò di buon mattino e trasferì l'armata piena d'ardore sulla strada di Bet Zaccaria, dove le truppe si disposero al combattimento e suonarono le trombe. Per aizzarli al combattimento misero davanti agli elefanti succo di uva e di more. Ripartirono queste bestie tra le varie falangi e intorno a ciascun elefante disposero 1000 uomini con corazze a maglia e sulla testa elmi di bronzo, mentre 500 cavalieri scelti erano disposti intorno a ciascuna bestia. Costoro, in ogni caso, stavano là, ovunque era la bestia, l'accompagnavano ovunque andava e giammai si allontanavano da essa. Delle torri di legno fortemente protette erano assicurate su ciascuna bestia mediante congegni, e in ciascuna torre vi erano 4 uomini armati che combattevano da sopra ad essa, e in più l'indiano. Quanto al resto della cavalleria, il re la ripartì di qua e di là ai due lati dell'armata per sconvolgere il nemico e per proteggere le falangi. Quando poi il sole rifulse sugli scudi d'oro e di bronzo, le montagne ne furono illuminate e brillarono come lampade di fuoco. Una parte dell'armata del re si schierò sulle alture della montagna, gli altri, invece, nella pianura, e incominciarono ad avanzare cautamente e ordinatamente. Restavano tutti scossi quelli che udivano il clamore della loro moltitudine, il calpestio di tanta gente e l'urto delle armi. Era infatti un esercito straordinariamente grande e potente. Giuda avanzò col suo esercito all'attacco e nell'esercito del re caddero 600 uomini. Eleazaro, detto Awaran, vedendo uno degli elefanti bardato con armature regali e più alto di tutti gli altri, credendo che sopra di esso vi fosse il re, diede se stesso per salvare il suo popolo e per acquistarsi un nome eterno. Corse arditamente verso di esso in mezzo alla falange, uccidendo a destra e a sinistra, sicché i nemici si scindevano davanti a lui da una parte e dall'altra. Cacciatosi sotto l'elefante, lo colpì di sotto e l'uccise. La bestia però cadde a terra sopra di lui, ed ivi egli morì. I giudei, tuttavia, vedendo la forza del re e lo slancio delle sue truppe, ripiegarono davanti ad esse. Gli uomini dell'armata del re, allora, salirono contro di essi alla volta di Gerusalemme, e il re fece porre il campo contro la Giudea e contro il monte Sion, mentre egli trattò la pace con quei di Bet-Zur, i quali uscirono dalla città perché non avevano più viveri per sostenervi un assedio, essendo la terra in riposo. Così il re, presa Bet-Zur e postovi un presidio per custodirla, tenne assediato per molti giorni il santuario, erigendovi piattaforme, macchine, lanciafiamme, baliste e scorpioni per scagliare frecce e proiettili. Anche i giudei, però, costruirono macchine contro le loro macchine e combatterono per molti giorni. Non essendovi tuttavia più viveri nei depositi, perché quello era l'anno sabbatico e perché coloro che da mezzo ai gentili avevano trovato scampo in Giudea avevano consumato il resto delle provviste, furono lasciati nel santuario soltanto pochi uomini e gli altri, presi dalla fame, si dispersero ciascuno al suo paese. Frattanto, Lisia venne a sapere che Filippo, incaricato dal re Antioco ancora vivente di educare suo figlio Antioco per prepararlo al trono, era ritornato dalla Persia e dalla Media con le truppe che avevano accompagnato il re e cercava di impadronirsi del potere. Allora si affrettò a far cenno di voler partire, dicendo al re, ai comandanti dell'esercito e agli uomini: «Noi scemiamo di giorno in giorno, il cibo è poco, il luogo che teniamo assediato è fortificato, mentre le cure del regno incombono sopra di noi. Ora perciò offriamo la destra a questi uomini e facciamo la pace con loro e con tutta la loro gente». concediamo loro di poter vivere secondo le loro leggi come per l'innanzi, giacché è a causa delle loro leggi che noi abbiamo abolito che essi si sono irritati e hanno fatto tutte queste cose. Il suo discorso piacque al re e ai principi. Si mandò perciò a trattare la pace con i giudei, e questi accettarono. Il re e i principi giurarono davanti a loro, ed essi, a tali patti, uscirono dalla fortezza. Però il re, entrato sul monte Sion e visto il luogo fortificato, ruppe il giuramento che aveva fatto e comandò di abbattere il muro all'intorno. Quindi partì in fretta e fece ritorno ad Antiochia, dove trovò Filippo che si era impadronito della città. Combatté contro di lui e con la forza occupò la città.